Internet, giovani e creatività. Kublai è una rete di persone impegnate per la crescita del territorio locale. Unisce arte, tecnologia, innovazione, design. Diventa un'officina in grado di raccogliere idee e trasformarle in progetti, con il sostegno del Dipartimento per lo Sviluppo Economico. Alberto Cottica è tra i fondatori di Kublai. Musica e scienze sociali sono la sua passione. Scommette sulle potenzialità dei giovani italiani aiutati da internet e dalle tecnologie digitali. I progetti di Kublai hanno un'ampia gamma di applicazioni: salute, turismo, istruzione, comunicazione, con un obiettivo comune: incoraggiare il tessuto locale a scommettere sul presente e sul futuro. Noi abbiamo Alberto Cottica, Luca Dello Iaco. Sì, c'è un progetto molto bello che è anche partito con club, che fa parte di quelli poi seguiti da Kublai, che funziona appunto come stimolo per i giovani che è quello di pazienti.org, giusto? Giusto. Ecco. Ci racconti qualche cosa, che tra l'altro noi l'abbiamo citato nello scorso paginone di Nova. Ma guarda, pazienti è sostanzialmente un'idea che è venuta a una persona che si chiama Linnea Passaler, che è un medico e che vive a Milano, e questa persona ha la passione così per la cittadinanza molto attiva. Nelle sue peregrinazioni ha incontrato Paul Hodgkin, che è un medico inglese, che ha fatto un progetto che si chiama Patient Opinion. È sostanzialmente un sistema di review anonime del Servizio Sanitario Nazionale, in questo caso britannico, e l'idea è che tu fai un'esperienza di, come paziente di del servizio sanitario, e poi fai una recensione in cui puoi sia ringraziare o fare complimenti, ma anche puntare il dito su alcune cose che non sono andate bene. Queste cose sono, tu sei protetto perché sei in forma anonima, non hai ripercussioni, nel senso che il tuo medico curante poi se la prende con te, ma vengono passate alla struttura sanitaria che desidera migliorare il proprio servizio.